Who's going to be the best at teaching me Italian? Hi guys, ready? Found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. E nel tuo sguardo sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te. Stretti forte poi, a piedi nudi noi, dentro la nostra musica, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. thank you so much, man. It's exactly what I wanted. Exactly how I pictured it as well. Really cool.